premio di laurea Francesco Lo Russo è, per la precisione, la sua seconda edizione. È nato 2 anni fa in collaborazione con la casa editrice di Red Star Press e appunto è nato sul solco di svariate lotte. Ai tempi c'erano sia le lotte per il caro mensa che le lotte in zona universitaria per i tornelli. Sul solco di queste lotte, in memoria di Francesco Lo Russo, per mantenere attiva la memoria storica dell'università, abbiamo pensato di organizzare questo percorso, che è un premio di laurea aperto per le tesi triennali, proprio appunto per attenzionare un po' i lavori che solitamente all'interno del percorso accademico non vengono messi in risalto. Difatti è più la laurea magistrale quella che conta poi nel proprio curriculum, e quindi per non far entrare in un circolo di dimenticanze questi lavori, per dargli un altro tipo di valore al di fuori del circuito accademico, abbiamo iniziato questo percorso e quest'anno sono arrivati molti lavori, il doppio rispetto allo scorso anno. Sono arrivati ad incirca 30 tesi, addirittura anche dal Brasile sono arrivati dei lavori. Quest'anno abbiamo deciso di dare un po' più importanza ai temi di contenuto di profilo storico. Difatti i lavori vincitori, che quindi verranno pubblicati sotto forma di produzione, quindi di libro cartaceo, sono 4, riguardano temi svariati. Per citarne alcuni, un lavoro è sull'origine del tribunato della plebe, un altro è sulla motivazione teologica della rivolta dei contadini di Thomas Munzer, un altro lavoro che andremo a pubblicare riguarda la lotta all'organizzazione della lotta armata del movimento studentesco afroamericano, e un'altra tesi che andremo a pubblicare riguarda il movimento studentesco etiope negli anni 70. Per l'appunto abbiamo richiesto a chi intende partecipare a questo premio di mandarci lavori che riguardano movimenti sociali, la lotta al patriarcato, comunque temi che riguardano i più svariati argomenti del conflitto sociale. Siamo stati molto contenti di questa edizione, appunto sia per la mole di lavori che ci sono arrivati, ma anche per l'interesse che ha suscitato. Come già dicevi, quindi insomma non riguarda solo lavori bolognesi o italiani, ma sono arrivati sì, appunto prodotti un po' da tutto il mondo. Sì, esatto, infatti abbiamo ricevuto anche questa tesi dal Brasile che riguarda il movimento studentesco degli anni 70 in Brasile. Purtroppo appunto, valutando e considerando solo i lavori delle triennali, questa tesi proviene da una magistrale e quindi non abbiamo potuto insomma prenderla in considerazione, però sì, sono arrivati anche molti lavori di tesi magistrali che appunto non teniamo in considerazione, però ci hanno dato un po' il metro di quanto questo premio è stato condiviso e ritenuto interessante da diverse persone. Questo premio è anche uno strumento diverso insomma dai soliti per tenere viva la memoria di Francesco. Sì, difatti abbiamo deciso appunto che era un ottimo strumento per poter parlare di Francesco Lo Russo, uno studente che ha vissuto in prima persona la zona universitaria e l'università negli anni 70, e che praticamente 42 anni fa è stato ucciso dai colpi di proiettile dei carabinieri durante una manifestazione contro un comizio di CL. Abbiamo ritenuto interessante aprire questo percorso perché appunto vuole andare un po' a aprire anche il discorso su cosa vuol dire fare memoria storica in università, ricordare determinati tipi di avvenimenti che normalmente negli orari delle lezioni o comunque nei circuiti accademici non vengono messe in risalto, comunque non se ne parla mai abbastanza di questi fatti, di persone come Francesco Lo Russo che si sono spese per l'università e per la storia della città di Bologna, e ovviamente apre anche discorsi su quello che è un po' la valutazione su come vengono ritenute determinati lavori che sono poi le tesi di laurea triennali.